Buongiorno a tutti, siamo qui oggi a Palazzo Pepoli in occasione della presentazione della nuova permanente ospitata dalla città, il Polittico Griffoni per sempre a Bologna. Grazie al professor Mauro Natale, curatore della mostra La riscoperta di un capolavoro, per essere qui con noi ai microfoni di Radio Città Fucico. Buongiorno professore, inizierei con una prima domanda che appunto nel 2020 il Polittico Griffoni è stato ricomposto dopo essere stato disperso per secoli. Che cosa ha significato riunirlo ed esporlo proprio a Bologna, città per la quale era stato realizzato? Ah, buongiorno a lei. Beh, è stata un'esperienza indimenticabile perché il dipinto, che adesso è attualmente smembrato tra i più grandi musei del mondo, a Washington, a Londra, a Parigi e via di seguito, ha costituito nella seconda metà del 400 un apice della cultura figurativa in Bologna, assolutamente invalicabile, di una qualità stupefacente. Naturalmente tutti i pezzi erano ben noti, visti separatamente, erano stati anche idealmente assemblati già a partire dal 1934 da Roberto Longhi, con un intuizione geniale. Aveva capito che gli elementi essenziali facevano parte dello stesso insieme, ma non era mai stato possibile riunire fisicamente questi elementi. Ed ha provocato, secondo me, questa riunione, anche se in realtà la mostra è stata penalizzata dalla pandemia e quindi è rimasta chiusa per molto tempo, ha reso tangibile un'assenza assolutamente fondamentale nella storia dell'arte di Bologna del Rinascimento. E ora invece c'è questa permanente qui a Palazzo Pepoli. E com'è nata l'idea, o comunque anche come è stata realizzata? Dunque, bisogna anticipare un elemento di informazione. Prima della realizzazione della mostra era stato realizzato con una tecnologia assolutamente innovativa un facsimile che riproduce con le dimensioni e direi con la stessa pelle degli originali i vari pezzi che componevano questo polittico. Questo facsimile è stato di un'utilità formidabile per riassemblare gli elementi smembrati, perché ci ha consentito appunto di confrontare la materialità delle opere, che certo non avremmo potuto realizzare con gli originali, che non si possono manipolare, che sono incorniciati, insomma protetti. Certo. Questo facsimile che è stato realizzato da Factum Foundation, questa associazione, società che è specializzata in questo tipo di riproduzioni, è stato dunque realizzato davanti agli originali. Il fondatore di questa fondazione è andato a Washington, è andato a Londra, eccetera. E adesso questa testimonianza così ingannevole, perché davvero è di una qualità stupefacente questa riproduzione, rimane in modo permanente qui nel Museo della Città e sarà la testimonianza di un'opera meravigliosa, ricomposta e perduta per sempre per la città, e nello stesso tempo sarà probabilmente la testimonianza di questa esperienza espositiva così, così importante e certo limitata nel tempo. E infine verrà anche presentato il nuovo volume Polittico Griffoni, un dono per la città. Da che cosa è nato questo lavoro? Da quali collaborazioni? Ma per l'appunto, lavorando sul facsimile e di fronte alle opere reali, ci siamo resi conto che rimanevano aperte molte domande, molti interrogativi sono stati anzi suscitati. Ci siamo anche resi conto che la ricostruzione più accreditata, nella quale abbiamo creduto e che era la base della nostra esposizione, e che nasce dagli studi più recenti di Cecilia Cavalca, che ha pubblicato un grande volume sui politici bolognesi nel 2013, ebbene questa ricostruzione andava in qualche modo corretta. Poi c'erano aspetti che erano rimasti insoluti, tipo la scelta dei santi, perché San Vincenzo Ferrer, un santo tremendo, transigente, e quindi da queste sollecitazioni è nata proprio la volontà di approfondire alcuni temi, e il volume che presentiamo oggi raccoglie per l'appunto gli interventi che furono realizzati in quella giornata.